Woke up this morning, my wife came back. I said I woke up this morning, my wife came back. Haven't seen her for 15 years. When she left me, I cried a million tears. Oh Lord, my wife came back. I guess this is a happy blues. Later that same morning, the sun started shining. I said later the same morning, the sun started shining. It ain't never happened since the river went dry. All I ever seen was the darkened sky. Oh Lord, the sun started shine. I guess this is a happy blues. Happy, happy, happy blues. Erano i Banshee Turnside. Un ingresso troppo professionale, forse per il numero zero del podcast del GL Como. Siamo qui stasera in due. Forse sto parlando un po' forte. Sono Fabrix, abbiamo qua Loris. Loris come ospite. Vieni più vicino, se no non ti si sente. Mi sto avvicinando. Bravo. Benissimo, allora le attrezzature sono quello che sono. Un giorno diventeremo miliardari e sì, acquisteremo sì, di tutto e di più. Ci potremo permettere fior di tecnologia. Intanto registriamo questo numero zero di un podcast orientato a Linux e all'open source. Stavo pensando, potremmo creare un sistema operativo per tirar su dei soldi e magari... Bravo! E magari... Questa è un'idea. Potremmo un'idea. Chiudere del software aperto, sì, del codice aperto e farci dei soldi. Si potrebbe fare. Anche no però. Ma anche no. Ma anche no. Però non è la sede più opportuna secondo Forse me. Forse no. Se dobbiamo proprio andare a guardare... Sì, non siamo partire. Proprio... Esatto. Parliamo di cose serie. Parliamo di ma cose quando serie. Mai? Parliamo di cose serie. Che notizie di oggi? Che notizie di oggi? Allora. Stavamo sfogliando un po' i siti di news inerenti all'argomento. Mi piace quando dico queste parole news, lunghe. Queste parole no, inerenti è proprio. È un po' come dire Banshee Turnside. Sì. L'happy blues che abbiamo sentito prima. Banshee Turnside, happy blues. Ci siamo messi d'accordo, ma chi lo deve leggere? Vabbè. Allora, stavamo spulciando un po' i siti di news. Allora... Oggi una notizia che può far piacere, anzi penso faccia piacere, è stato finalmente liberalizzato il Wi-Fi. Yuppi! Cosa significa? Che una persona qualunque può mettere lì la sua antennina e dire adesso io sparo il mio segnale e nessuno mi può dire niente, giusto? Mi può confermare, dottor? Ma non ho letto la notizia. Non abbiamo letto. No, tu l'hai letta. Io l'ho letta in velocità, penso sì. Andiamo a leggere la andiamo notizia. A legge... Allora andiamo a leggere la notizia. Andiamo a leggere che... la notizia. Visto su... che di Loris è meglio non fidarsi. Esatto. La notizia è riportata su Zio Buddha. Su Zio Buddha, grande, grandissimo. Dice che oggi è stato presentato un decreto. Sì. Che estende l'utilizzo del Wi-Fi oltre le aree già regolamentate, quali fondi privati e le aree confinate aperte al pubblico, come ad esempio aeroporti e stazioni. Allora è quello che dicevo io. È stato presentato un decreto. Ah, allora niente. Quindi ragazzi, vuol dire che c'è ancora un po' di tempo. Speriamo che, voglio dire, così finalmente il vicino di casa, quello che mi sta di fronte, potrà collegarsi senza problemi al mio Wi-Fi. Ah, benissimo. Perché sennò è un problema. Ah, vi eravate già messi d'accordo? Sì, ci siamo parlati prima al balcone. No, non vedo l'ora, facciamo la DSL. Sì, una per tutto, una per tutto il condominio. Tutto il condominio, esatto. Comincia a diventare un po' come l'antenna. E beh, mi sembra giusto comunque. Scusa, cioè, se una persona non si può permettere una DSL, giusto, perché non dargli la possibilità di... Infatti, poi tanto la maggior parte dell'utenza ha bisogno di scaricare posta, accedere a informazioni. Non è che dobbiamo star lì tutti quanti a scaricarci le distribuzioni appena uscite da 4,5 GB diciamo su DVD. Diciamo così. Ecco. Installare allora programmi in un click. Ecco, questa è una notizia particolarmente interessante, secondo me. Non lo so. Secondo me il mondo Linux ha bisogno di semplicità. È uscito questo software innovativo, come scrive sempre Zio Buddha, che permette di eseguire programmi su Linux senza installazione. Fondamentalmente si scarica il software e lo si utilizza. Ecco, diciamo che si fa il tutto con un click, giusto? È anche il nome del programma, click. Perché? Perché molta utenza, soprattutto l'utenza abituata a Windows, diciamo che ci sono gli smanettoni dell'installazione, quelli che hanno un po' il click facile, insomma, no? Sono lì, arrivano, vedono l'iconetta, vogliono fare il doppio click e quello si installa. Ecco, diciamo che questa è una soluzione per il mondo Linux che vuole appunto offrire un come dire, un servizio del genere, insomma. La semplicità di un click è avere subito il programma pronto, si clicca e il programma parte. Cosa non so. Che non ameranno i... Non so, effettivamente si stavo leggendo anche un po' i commenti... Cioè, uno anche senza privilegi di root è in grado di far partire un programma così anche complesso. Sì, però non, c'è anche da dire che non, teoricamente non dovrebbe alterare la distribuzione, non dovrebbe aggiungere librerie binari inutili, ecco. Sì, quello sì, però comunque fai sempre partire qualcosa. È vero che comunque puoi farlo partire. Beh, certo, beh, secondo me allora a questo punto bisogna. L'importante è che non parte con i privilegi di root, forse. Eh beh, esatto, sicuramente, bisogna trovare un compromesso. Però vuol dire che ho meno controllo su quello che il mio utente sta facendo girare. Sì, bisogna un po' anche vedere chi è il tuo utente, se non sei tu stesso il tuo utente. Perché, beh, io adesso uso Linux non da tantissimo tempo, sono un paio di anni, però quando uno arriva dal mondo Windows si trova, ad esempio, davanti a termini del tipo root e uno dice, ma che cavolo è sto root? Cioè, sono abituato col mio Windows che entro, installo, faccio quello che voglio. Qui invece ogni due minuti mi chiede la password e mi dice devi inserire la tua password, altrimenti il programma te lo scordi, addirittura alcune volte anche per l'esecuzione. Che cosa mi dice lei? No, vabbè, effettivamente da una parte forse cioè l'utente, ma saranno cavoli suoi che devo far girare. Ma saranno cavoli suoi che devo far girare. No, vabbè, dal punto di vista di uno a casa, voglio dire, tu sei a casa tua, voglio dire, usi il tuo computer, sai la tua password di root, fai quello che vuoi, il computer è tuo. Ma visto dal punto di vista di uno che gestisce, non so, il computer in un ufficio, sì, in cui ha questi utenti che magari mettono su cose strane, voglio dire, ho meno controllo su quello che il mio utente sta facendo. Beh, certo. Da questo punto di vista. Ma infatti leggevo che questo programma, il click, è stato adesso è disponibile ad esempio per cioè è già integrato in distribuzioni come la OpenSUSE, cioè delle distribuzioni che sono orientate al desktop, insomma, all'utenza. Beh, sicuramente c'è bisogno di un equilibrio. Poi la flessibilità di Linux penso che ci possa aiutare appunto a avere magari la distribuzione con programmi di questo tipo integrati destinati all'utenza casalinga e invece distribuzioni che verranno installate in ufficio, in ditta, eccetera. Oh, oddio. Quando parli così professionale... Guarda, sono proprio una cosa... Guarda, mi sento un po' così poco professionale che... No, quasi no, mi stupisco. Vabbè, comunque poi sul nostro sito troverete tutti i riferimenti alle varie notizie, link e approfondimenti. Poi vabbè, ci metteremo a scrivere anche questo. Sì, certo, magari prendiamo qualcuno e lo facciamo scrivere. Sì, bravo, vedo che stasera non hai niente da fare. Già noi facciamo il podcast, cioè. È giusto. Non è caso. È giusto. Un po' per uno. Non vogliamo mica rubare il lavoro, no, agli altri. Bravo, c'è ecco. Gente che fa la fila fuori per fare questo. Sono tutti qua fuori dalla porta, ci stanno proprio... Che dire? Di qualcosa di serio, dai, no? Io direi che si potrebbe anche far partire una bella canzone a questo punto. Ma ricordiamo sì, che le nostre canzoni sono tutte sotto Creative Commons, che approfondiremo magari, non so, dopo aver sentito un brano. Sì, adesso che ne riesco a farlo, ecco, potete sentire i click del così, mouse di esatto, Fabrics in lontananza. Nervosi, click nervosi. Questi click nervosi ricordiamo puntata numero 0. Esatto, un podcast in prova. O meglio, se volessimo usare un italiano corretto, 0. No, con l'italiano corretto mi piace perché mi sputi sul microfono. Ci riprovo, 0. Già più bello. Che dire, glcomo.net, il nostro sito. Mitici. Ci avrete anche scaricato, quindi lo sapete. Ci avrete anche scaricato, in che senso ci avrete anche scaricato? È una vita dura. È una vita dura. Andiamo col prossimo pezzo, Brad Sachs. Si chiama così, eh? Oh. Making Me Nervous. Sucks, Making Me Nervous, un pezzo in Creative Commons che potrete trovare i link sul nostro sito. Il link sul nostro sito, fantastico. Grande Brad, il nostro amico Brad. A sentirlo sembrerebbe sax tipo saxofono, ma non è così. No. Cercate di immaginare, insomma. Vabbè, allora adesso Fabrix ci dovrebbe parlare di queste Creative Commons. Secondo me è un argomento piuttosto interessante. Ma sì, ma parliamo di Creative Commons. Vista tutto il giro di musica che c'è adesso su internet, legale, non legale, un euro a canzone. Ragazzi, mi devo fare un CD, mamma mia. Cioè, devo prendere il bus e ascoltare qualcosa, esatto. Non è che devo farci. Non ho tempo di star lì a prendere, farmi una carta di credito per pagare questi brani da internet. Io voglio accedere a internet, mi scarico il mio bel branetto, me lo metto sul mio bel lettorino MP3 in un attimo. Voglio scambiare un po' di divertimento con dei miei amici in tutta tranquillità. Infatti! Hai capito? Testina. Ecco. Allora, parliamo di Creative Commons. Parliamo. Creative Commons è questo progetto di licenze stile open source. Sì. Per tutto quello che è il multimedia, quindi contenuti multimediali. Quindi parliamo di audio, testi, immagini. Ah, quindi anche testi nel contenuto multimediale. Tutto. Queste licenze sotto cui anche trovate questa nostra registrazione. Ah, vedi, tra l'altro ho anche, scusa se ti interrompo, ho il sito davanti e vedo anche education, quindi lezioni, corsi, libri di tutto, testo. Qualsiasi cosa. Addirittura libri di testo. ci sono dei progetti in giro, adesso mi sfuggono gli indirizzi, dobbiamo essere un pochino, comunque poi vedremo di mettere sul sito qualche approfondimento sull'argomento. Qualsiasi cosa tu possa creare, qualsiasi cosa sia creazione umana, può essere messa sotto Creative Commons. Non è una cosa specifica, mentre già una GPL più orientata a un argomento tecnico quale programmazione, perché parla comunque di codice sorgente, di eseguibili, di librerie. Qua invece è generico, qualsiasi tipo. Adesso allora faccio una domanda, vediamo se siamo preparati. Ma queste Creative Commons tutelano in qualche modo l'autore del contenuto? Cioè, ovviamente l'autore è l'autore stesso a volerlo distribuire senza essere pagato, ovviamente. Volevo sapere se c'era una tutela nei suoi confronti. Beh, l'autore esercita comunque il suo diritto di copyright. È sempre comunque un modo, una maniera alternativa. È un copyleft. È l'idea di copyleft. L'idea di copyleft. Cioè, invece che limitare quello che l'utente finale può fare per aumentare i miei diritti, aumento i diritti dell'utente finale. Invece di dire tu questa cosa non la puoi copiare, io ti dico questa cosa la puoi copiare fino a un certo punto. E ricorda che è mia. Esatto, bravo. Infatti nella pubblicazione sotto Creative Commons si possono scegliere diversi livelli di libertà. Come dice il tastino Creative Commons, qualche diritto è riservato. Some rights reserved. Esatto. Interessante. Quindi io posso scegliere comunque di rilasciare un'opera sotto una licenza che sia che dia attribuzione, cioè puoi fare quello che vuoi, basta che dici che sono stato io a farla. Posso fare una licenza del tipo distribuzione, cioè tu puoi distribuire quest'opera chiaramente senza guadagnarci sopra. Posso fare anche una distribuzione commerciale, cioè se voglio posso anche lasciarti la possibilità di usarla per scopi commerciali. Ah, infatti, adocchiamo anche sul sito. Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali. Esatto, ci sono diversi livelli praticamente. Scelta, sul sito creativecommons.org. Addirittura la modifica dell'opera. Esatto. Quindi se uno è un po' più gelosino della sua opera, può anche scegliere di non permetterne la modifica. No, esatto. Io ti posso dire usalo, non modificarlo. Condividilo, ma di sempre che è mio. Deve rimanere mio. È una specie di licenza puzzle, diciamo. Ah, esatto. Una specie di licenza puzzle. Io scelgo i pezzi che voglio di questa licenza, che sono appunto attribuzione, distribuzione, modifica, commerciale, non commerciale, e li mischio per ottenere la licenza che si adatta a quello che voglio fare. Veramente interessante questa flessibilità delle Creative Commons. È interessante. Bene, bene, bene, bene. Allora, prossimamente un bel cortometraggio prima o poi verrà fuori, un bel montaggio con Cinerella. Esatto, ricordiamo di che di cui ne parleremo. Sì, intanto io ricordo solo che tipo 2 o 3 settimane fa è uscita la versione 2 di questo fantastico programma di editing video a livello professionale, non lineare. Sei veramente professionale. Grazie. Una seconda versione che risolve molti dei problemi di stabilità della versione 1, migliora un attimino l'interfaccia a livello di grafica. Bene. Ed è comunque un piacere da usare. Ah, benissimo. Devo dire che lavorando nell'ambiente di montaggi video ho stupito qualche collega facendogli vedere questo pezzo di programma. Attenzione. Girare su una Knoppix. Scommetto che la prima cosa che ti hanno chiesto è stata: ma è gratis? Esatto, sì. Perché tutti chiedono quello? No, non ci credo. Abbiamo da poco partecipato. E tu cosa gli rispondi? Ma no? Sì. Lui risponde no. No. È libero, bravo. Tu mi insegni. Bravo. Infatti, adesso ricordo, per esempio, abbiamo da poco partecipato all'Isola che c'è, un evento eco solidale di consumo alternativo. E insomma, eravamo lì con il nostro piccolo stand del GL Combo e tutti quanti arrivavano lì stupiti. Ma questo qua è Linux? Sì, è gratis. No, è libero. Ce l'avevamo stampato in faccia, da stupido. No, è libero. Dovremmo fare le magliette. No, è libero. Infatti, no, non pensate sempre al lato commerciale della cosa, ragazzi. Esatto. Comunque anche gratis. Esatto, molto spesso anche. Volevo comunque salutare i bambini che ci hanno fatto compagnia durante l'evento, che si sono molto divertiti anche loro a stracciare i nostri record ai videogiochi. Eccoli, perché noi ci impegniamo per fare i record ai videogiochi, e i bambini ci fregano tutti in un attimo, in tutte le cose. Penso tutte le che ci sia una materia adesso a scuola, videogaming. Videogaming, lo insegnano, sì, probabilmente. Se non sbaglio lo fanno tipo i pomeriggi, quelli più uno sceglie se fare, ecco. Puoi fare religione, disegno, educazione fisica. Educazione no, cioè inglese. Nelle, ma che se ne frega. Io faccio videogaming, infatti parlano meglio l'inglese. Giocando ai videogiochi. Benissimo, benissimo. È tutto molto divertente. Eh beh. E allora adesso. Ma ormai stiamo parlando, secondo me, da un bel po'. Canzoni poche, parlare tanto, ma ragazzi, è giusto così. Dovete capirci, è il numero zero, bisogna un po' farsi conoscere. No, ma è giusto così, perché tu prendi adesso, non so, uno. E tu? Che ha appena scaricato questo bel pezzo di registrazione. You. Tu che ci stai ascoltando. Sì. Tu. Proprio tu che ci stai ascoltando. Oh sì, ho un nuovo utente Linux. Esatto, che stai ascoltando questa fantastica registrazione. Oh yeah. Cioè tu prendi una persona così, sì, e si è scaricato questo podcast un po' curioso di un quello che avremmo potuto dire. Esatto. E se lo sta ascoltando sul suo bel lettorino MP3, sul suo iPod appena comprato a 249€ in offerta. Cavolo ragazzi, però 249€ non è poco, eh. Comunque se stai è lì sul suo bel metro che sta andando a scuola, al lavoro, dove sta andando, con le cuffiettine si sente due pirla che parlano fondamentalmente. Due pirla che parlano. Esatto. Però ragazzi. E si fa quattro risate. Si vuoi, vuoi mettere? Sei le in barzellette giro, no, però. Il metro poi piglia anche male alla radio, sei lì tutto lì. Esatto, il metro non prende, infatti. Poi ci vuole un po' di parlato ogni tanto, perché sennò uno sta sempre ad ascoltarsi la musica. Però mi raccomando, musica sotto Creative Commons. Tu sei bravo. Sei forte. Va bene, direi allora, che... parlando ancora di musica, dai, un ultimo branetto ci sta. Un ultimo branetto, cosa mettiamo? Ecco, prima un di un blues saluto. O finiamo con un Ace Face? Ma io punterei per l'Ace Face, visto il blues iniziale. Così facciamo anche una panoramica sulla varietà di musica under Creative Commons. Ne abbiamo da far sentire. Ne abbiamo. Qualche puntatina ne abbiamo. Ne abbiamo. Niente, chiudiamo qua questo numero zero, questo chiudiamo. Tentativo di un podcast italiano che tratti di Linux e open source. Tutto improvvisato. Tutto molto improvvisato, è il numero zero. Vabbè. Vi ricordo il nostro indirizzo glcomo.net, gl-como.net. Si trova? Mi raccomando. Sarebbe il meno il trattino, ragazzi, va bene fare meno. Dopo stai lì a fare no, il no, perché a me l'hanno già dovuto spiegare più di una volta. Io dico, scusa, cos'è sto trattino? Ecco. gl-como.net, dove troverete anche i link alle notizie, quelle quattro notizie che abbiamo dato con qualche approfondimento, certo. I link ai pezzi che abbiamo passato stasera. Da poco abbiamo... Che... Sì. Ah, scusate. No, dimmi. Ah, in modo che anche voi potrete scaricarvene, ecco, e godervene tutti. Ecco, da poco abbiamo rimesso sul forum, forse oggi, forse... Sì, il forum è in rientro, forse quindi... Forse riusciamo a farlo funzionare, quindi ci potete anche incontrare direttamente, esatto. Se qualcuno, che ne so... ci ha preso così in simpatia, dicevo, esatto, cioè il numero zero già ci vogliono insultare, già ci vogliono insultare, esatto. Ma da dove arrivate? Chi siete? Cosa? Un fiorino. E prossimamente metteremo anche qualche altra maniera, non so, una bella email, un qualche indirizzo VoIP dove trovarci magari. Esatto, che ci sta. Va bene, quindi chiudiamo qua questo numero. Chiudiamo con questo Ace Face. Ace Face, knock me out. Knock me out. Sì, mi piace dire .mp3. E no, MP3 non va bene ragazzi, però ci sono altri formati che sono migliori. Adesso appena mi organizzo faremo facciamo OG, eh. Va bene, allora un saluto da Loris. Io sono Fabrix. Io un sono saluto. Loris. Tu sei sempre Loris? Sì. Ma è diverso da prima? Sì. Che cosa roba. Va bene, chiudiamo. knock me out. I said, Dave, you could never be the race that made him free. TV telling him to say no to crack. I sent down all the fire bells. He drowned in his private hell. I threw her up, but he threw it back. Every day now, and if the backbeat is sweet, I don't care. And if you're dancing in the street, I'll be there. You know I love my way. You know I speak and down. You know I laughed and cried. And you know I hit the spot that made me scream and shout. And knock me out. You never lost my way.